Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Andata un po' di lungo la sigla perché i tempi tecnici di Radio Sveglia curata dal Breakfast Club devono essere ben organizzati, quindi se avete bisogno di questo servizio voi richiedete un'intervista al Last Minute e sarà nostra cura portare puntualmente o quasi un dolce risveglio, come diamo il buongiorno a Bruna Gambarelli. Ben ritrovata, Bruna. Buongiorno anche a voi, grazie. Ma grazie a te. Intanto diamo anticipazione di quello che sarà a partire, anzi già partito, di quello che sarà fino al 29 settembre, ma già partito dal 24, DOM, la cupola del pilastro, la curatela di laminarie, ginnasio, arte performativa, nei luoghi dello sport. Allora, prima di arrivare agli appuntamenti che porteranno a conclusione con alcune specifiche di approfondimento con Bruna, io parlerei di linee generali a proposito di questo motivo d'incontro che mi ha incuriosito tantissimo. Ginnasio, arte performativa nei luoghi dello sport, è per quello che ti ho dato una sveglia anticipata. Ci puoi dire qualcosa di più? Certamente. Allora, innanzitutto grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Ginnasio è una rassegna che quest'anno è la sua seconda edizione, che desidera mettere in connessione l'arte performativa con i luoghi dello sport e anche evidentemente con i contenuti delle attività sportive. E per questo quest'anno abbiamo avviato una serie di attività, di iniziative, come appunto dicevate, due repliche dello spettacolo Storia senza nome sono già state realizzate il 24 e 25 settembre, si continua però il 27 e il 28 settembre e un altro appuntamento specifico il 29 settembre. Bene, allora, detto questo, il prossimo appuntamento è domani, se non vado errato. Certo, il prossimo appuntamento è domani alle 20:30 con una lettura scenica di laminarie realizzata in collaborazione con Serena Viola. In scena sono Cristiana Raggi, Donatella Allegro e Mirella Mastronardi. Si chiama Cronache di gesti olimpici. Quindi è il racconto attraverso le parole di alcuni importanti scrittori delle gesta atletiche e sportive di alcune figure fondamentali che hanno, diciamo così, segnato la storia delle Olimpiadi. E poi alle 21 invece uno spettacolo realizzato appositamente da un collettivo di giovanissimi, il collettivo si chiama Malasienu, lo spettacolo si chiama Il Giardino dei Sogni, e se tutto questo, che inizierà alle 20:30, si terrà in un luogo veramente particolare. Sì, molto. aperto per la prima volta, perché appunto uno degli obiettivi di ginnasio, oltre a essere quello di appunto realizzare performance in luoghi inconsueti, come solitamente sono gli spazi sportivi, abbiamo già lavorato nelle palestre di box, abbiamo lavorato nei campi da baseball, eccetera. Quest'anno invece portiamo due spettacoli che hanno un tema, diciamo, vicino ai contenuti appunto dello sport, in un luogo totalmente inusuale che è la centrale termica di via Panzini al Pilastro. E questa è una cosa bellissima perché mi ricorda i miei tempi da capotecnico elettricista, dove io avevo una propensione per il lavoro in certi luoghi particolari, e quando c'era l'impianto nelle centrali termiche per portare i quadri elettrici, le alimentazioni alle elettropompe, alle caldaie, insomma, per me già era un palcoscenico, hai capito? In questi posti che per il lavoro, anche per la nostra quotidianità, sono importanti, e perché no, trasformarli anche in una sorta di teatro è decisamente molto curioso, e ne avete ben merito per questa idea di proporre un contenuto importante, artisticamente parlando, ma in tale palcoscenico. Brava Bruna, questo lo vogliamo sottolineare. Sì, sì. Devo dire che lavorare in questi luoghi solitamente non aperti al pubblico è un po', rientra un po' nella vocazione di Laminarie, no? Quello di scoprire e di lavorare in connessione con spazi architettonici. Questo è particolarmente interessante perché si tratta di una specie di parallelepipedo in mattoni realizzato nei primi anni 60, quindi fa proprio parte della storia del rione Pilastro, e ha fuori quattro ciminiere in alluminio veramente molto interessanti, anche molto di grande impatto visivo. Sì, bello, in effetti è molto interessante tutto ciò. Scusa se ti ho interrotta. Figurati. Stavi per procedere, ma io metterei su un po' di musica perché ti do il tempo di prendere un caffè e poi magari possiamo rientrare per parlare di modalità per partecipare alla rassegna e anche fare una piccola citazione per quella che sarà la conclusione. Mi permetti questo stacco, Bruna? Puoi restare un po'? Molto volentieri. Grazie intanto. Grazie a te. A tra poco. Ciao. My mother's pleasure, I was moved by the makes of man, but was late to me. Can I handle what I'm seeing? Can I fade it? I will never seem to tire of getting better. Spazio appena presentato da Bruna Gambarelli per Dom, la cupola del pilastro in sedi molto particolari, la curatela di Laminarie per ginnasio, arte performativa nei luoghi dello sport. Se per caso volessi avere reminiscenze professionali da elettricista, mi presento con la tuta, la borsa degli attrezzi, il tester, i cacciaviti e tutto quanto che può essere utile per poter essere concretamente in una centrale termica. Se vorrei partecipare, come si può fare, Bruna? Allora, tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria, quindi occorre chiamare a 051 62 42 160, o altrimenti scrivere a info@laminarie.it, Naturalmente sì. Tutte le informazioni le trovate sui siti della Compagnia Laminari oppure di Dom La Cupola del Pilastro, e naturalmente è tutto gratuito, occorre bene. Semplicemente prenotare, perché trattandosi di spettacoli itineranti il pubblico evidentemente è limitato. Certo, mi rendo conto. Si chiude con un appuntamento, ci dici due parole a tale proposito per domenica 29 settembre prima di congedarci? Certo, domenica 29 settembre alle ore 18 ci sarà un'iniziativa che è consueta nell'ambito delle attività di Dom, nel senso che ogni anno festeggiamo il 100° anniversario dalla nascita di una figura che è particolarmente interessante oppure vicina al percorso della compagnia. Già abbiamo festeggiato Etillesum, Don Milani, John Cage. Quest'anno abbiamo scelto di festeggiare un compositore, Luigi Nono, figura importantissima dell'avanguardia musicale, che ci è particolarmente vicino, oltre naturalmente alla sua opera di musicista, anche perché ha scelto nel corso della sua carriera di andare incontro a luoghi appunto particolari che solitamente non ospitavano la musica contemporanea. Certo. Quindi ex fabbriche, luoghi veramente molto interessanti dal punto di vista acustico, ma soprattutto dal punto di vista diciamo politico, no? Un grande impegno. Sì, quindi alle 18 ci sarà questo incontro pubblico che abbiamo intitolato Ascoltare l'inaudibile, e al quale parteciperanno, oltre a due musicisti, un musicologo, uno storico delle religioni che si è già occupato di scrivere un testo proprio in occasione dei 100 anni che sono stati festeggiati a Venezia negli scorsi mesi, e il regista e lo scenografo che ha rimesso in scena il Prometeo di Luigi Nono a Venezia proprio in occasione dei festeggiamenti diciamo ufficiali per questo centenario. Tutto questo si svolge in collaborazione con la Fondazione Luigi Nono, che ovviamente ringraziamo. A seguito, intorno alle 20 ci sarà un brindisi, e poi alle 20:30 un'esecuzione per flauto, basso e nastro magnetico e live electronics, che si chiama Das Atmen de Klarsheim, eseguita da Roberto Fabriciani e Alvise Vidolin, che sono i due musicisti che sono stati a fianco di Luigi Nono per circa 30 anni, insomma, sono forse coloro che hanno maggiormente diciamo seguito l'opera del compositore dalle origini fino quasi diciamo alla sua fine. Bene. E in particolare volevo sottolineare la presenza di Alvise Vidolin, perché Luigi Nono ha inaugurato insomma l'epoca del live electronics, e Alvise Vidolin è stato l'ingegnere che lo ha permesso. Io ti ringrazio tantissimo. Ginnasio Arte Performativa nei luoghi dello sport, grazie Bruna Gambarelli per questo last minute. L'italiano è una lingua maledetta, come diceva il maestro Paolo Villaggio. Se io volessi partecipare, prima ho avuto questo sbaglio nei tempi verbali, ne faccio ammenda e chiedo scusa, e intanto ti auguro una buonissima giornata e ti aspetto per un altro appuntamento qui al Breakfast Club. Grazie Bruna. Grazie a tutti voi, grazie mille, a presto, ciao. J. Joy De Francesco all'organo Hammond B3, Bobby Hutcherson al vibrafono, David Sanborn a sax contralto, una formazione incredibile per Enjoy The View, Blue Note Record, questo disco che stiamo ascoltando e che ci accompagnerà alla pubblicità. È un grande piacere trovarmi di fronte, seppur separati dal vetro, con Anna Cesari. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, è un piacere anche per me, molto. Anche nonostante l'orario, che già abbiamo visto ha portato qualche disagio, però diamo una bella sveglia con il Breakfast Club. E tra poco in mostra, tra poco doppio appuntamento in mostra.